Ciao a tutte, ciao a tutti. Ho avuto dei piccoli problemi tecnici e quindi purtroppo ho cominciato a trasmettere già da 10 minuti, ma non avete sentito nulla. Allora vi saluto ancora, questa è la trasmissione della Coordinamenta Femminista e Lesbica I Nomi delle Cose e siamo sempre sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. La puntata di oggi è dedicata all'amore romantico, al paradigma dell'amore romantico e ci è venuta in mente ragionando intorno al tema della violenza contro le donne, della violenza di genere. Infatti sussiste un legame molto intimo tra la violenza e l'amore patriarcale, l'amore romantico, cioè quell'ideologia amorosa che permea tutte le nostre relazioni attuali. La puntata è dedicata, diciamo, l'incipit di questa puntata lo traiamo da due frasi che ci hanno molto colpito. Una è di Daniela Pellegrini che dice: quando si dice che l'amore è cieco, meglio sapere chi gli ha cavato gli occhi. La seconda invece è di Alexandra Kollontai, con la quale nella seconda parte della trasmissione cercheremo di analizzare i diversi paradigmi di amore che sono cambiati nel corso del tempo a seconda della struttura sociale ed economica da cui derivavano. E intorno all'enigma dell'amore, la Kollontai dice appunto: nelle differenti tappe del suo sviluppo storico, l'umanità ha tentato di risolvere la questione in diversi modi. Le chiavi cambiano, ma l'enigma rimane tale. Esse dipendono dall'epoca, dalla classe, dallo spirito del tempo. Come si diceva in apertura, quindi l'amore romantico è legato anche alla violenza di genere. Infatti questo tipo di amore, che è fondato sul concetto di proprietà privata e sulla base di diseguaglianza che esiste tra uomini e donne, quindi anche sulla differenza dei ruoli sessuati, sulla divisione dei ruoli in base al sesso tra maschi e femmine, non può che riprodurre il sistema patriarcale. E infatti questo amore patriarcale o amore romantico è uno dei mezzi di affermazione del patriarcato più potenti, ancora più forse delle sue leggi, perché nasce proprio e si radica dentro di noi, dentro le nostre relazioni più quotidiane, più intime e quindi anche più forti. Allora, come dicevamo prima, appunto, la prima parte voleva essere un po' una specie di carrellata su quello che è l'immaginario dell'amore romantico. Già in altre occasioni ci siamo occupate di tentare di dare, diciamo, una forma e anche una consistenza a quello che è appunto oggi la concezione dell'amore romantico. Allora, in realtà ci è venuto in mente di riprendere un vecchio materiale che era stato utilizzato per un 25 novembre del 2012 un 14 febbraio, tutte e due le volte. Che è appunto uno scritto di Coral Herrera Gomez, che appunto sostiene che il romanticismo è un meccanismo culturale più potente per perpetuare il patriarcato, e quindi appunto lo disegna come controllo sociale che ordina appunto tutti i mali che vengono dal patriarcato. Ovviamente è la forma lei la definisce, diciamo, una forma culturale, perché poi alla fine in qualche modo prende forma proprio attraverso i comportamenti, anche le regole. Infatti il fatto che lo utilizzammo per il 14 febbraio era un po' anche per dire che appunto l'idea di amore, no, che viene perpetrata dalla società è sempre quello che appunto c'è un genere diciamo che riceve un dono e uno che è costretto per forza a farlo. Entrambi costretti sia a farlo, sì, che a riceverlo. E quindi appunto da lì, da diciamo un'analisi più leggera su quello che era il 14 febbraio, insomma, in maniera consumistica, anche se vogliamo, e siamo andate a fondo appunto a capire che cos'è in realtà questo amore romantico, che natura ha. Ma innanzitutto diciamo, secondo l'articolo appunto che citavi, no, l'opinione di questa compagna, per capire anche un po' il meccanismo, il legame tra violenza e amore romantico, bisogna capire anche il legame tra abuso e affetto, cioè come esista un meccanismo che viene appunto incentivato da questa società, per cui per far innamorare una donna spesso e volentieri carota e bastone, abuso e affetto sono strumenti molto efficaci per sgretolare l'autostima della donna in questione, e quindi fondamentalmente per farla prostrare ai propri piedi, no? E questo effettivamente è lampante nei casi estremi, cioè quelli della prostituzione forzata, della tratta delle donne, no? In cui un sacco, per esempio, di donne dell'Est Europa negli anni 90 hanno descritto questo fenomeno, no? Di super maci che arrivano, le sposano, le ricoprono di regali per i primi 2-3 mesi e poi le portano in Italia con il sogno di un futuro migliore, e in realtà poi le mandano a prostituirsi, no? E quindi sono meccanismi che fanno leva soprattutto su donne non solo piene di sogni ma povere di mezzi materiali per realizzare. E di qui c'è anche un primo collegamento con la struttura economica, cioè di come questo ideale di amore, questi meccanismi di amore possessivo e che dà dipendenza, che crea dipendenza e che dà dipendenza, si fondino poi su degli elementi materiali anche, no? Su una differenza economica, ad esempio. Certo, assolutamente. E poi da lì, appunto, diciamo, nell'immaginario questa forma prende, no, forme più conosciute come ma mi ama, ma non so, me lo dimostra così, ma lui fa di tutto, questo mi faceva venire in mente, ne parlavamo di quello che è l'immaginario delle canzoni, stando in radio, mi è venuto in mente di citare alcune canzoni che in realtà proprio portano avanti questa idea di romanticismo estremo, no? Questa ricerca continua e smodata di queste cavolo di farfalle nello stomaco, che, cioè, se non ce l'hai sei morto, e se non le senti, oddio, sono morte le farfalle, dove sono? E cioè, che forse, insomma, è proprio un'idea completamente sbagliata di quello che è l'amore inteso come una relazione tra due persone. E proprio perché appunto, cioè, qui torna sempre poi il dato economico, cioè nel senso l'amore come è venduto, perché è venduto l'amore, l'idea d'amore è in vendita, insomma è una merce, e questa merce viene venduta con questa forma in questo momento, e quindi deve essere qualcosa di esplosivo, di travolgente e totalizzante. Esatto. Una volta che sei innamorata non devi curarti più di nulla, assolutamente, no? Se non del tuo aspetto e di tenerti l'uomo che te sei piata. Esatto. E appunto queste canzoni appunto ribadiscono vari testi, insomma non citerò le canzoni proprio nello specifico, però ci sono appunto l'amore senza fine, down on my knee, I'm begging you, non lasciarmi, poi non lasciarmi, cioè questa cosa straziante dell'essere lasciata come il punto di non ritorno, cioè nel senso nel momento l'amore romantico presuppone che se vieni lasciata la tua vita finisce, perché presuppone che il tuo valore venga dato dal riconoscimento dell'altro, cioè una donna vale perché è scelta da un uomo, e questo tanto ce lo dice la società che finiamo per crederci un po' anche noi, no? È il mito della mezza mela, del fatto che da sole non si è complete e che quindi bisogna cercare questo principe azzurro che ci salvi dalla nostra incompletezza. Certo, e poi qua ovviamente qua le mode sulla musica e su, insomma, costruiscono mostri, insomma. E però, come dicevamo pure un po' di tempo fa, effettivamente si assiste anche a un leggero cambiamento, nel senso che ragionando per esempio sui film Disney avevamo notato che da che l'immagine dominante è sempre stata quella della principessa che viene salvata, no? Adesso ultimamente le eroine della Disney sono ragazze che diventano donne prendendosi in carico se stesse e fondamentalmente facendo carriera, cioè rinunciando, sì, all'amore per la carriera. È come un'indicazione di: va bene, se non vuoi essere sposa di un uomo puoi essere sposa del capitale, non c'è problema, c'è l'alternativa comunque, insomma da qualche parte però ti devi sposare. L'altro filone è quello latinoamericano, perché quello che ho citato fino adesso è tendenzialmente anglo-americano e italiano, appunto, di questo amore travolgente, che esiste solo questo. Poi vabbè, insomma, diciamo che i luoghi comuni sull'amore italiano, no? Sull'amante latino-italiano sono, vabbè, insomma, proprio wow, milioni di milioni. E appunto qua... donna della mia vita, io sono l'uomo più felice solamente se sto con te, insomma il reggaeton purtroppo ci ha regalato delle cose orribili e che in realtà insomma anche quando abbiamo parlato di Cuba in realtà avevamo proprio parlato di questo, no? Dell'immaginario in realtà della sessualità e di quanto invece in un paese dove diciamo questo genere di musica è vietato perché per i contenuti appunto sessisti in realtà la sessualità era vissuta con molta più naturalezza e cioè, slegata completamente da il ruolo maschio-femmina, come insomma abbiamo sempre tentato di definirlo e riuscire a metterlo a fuoco. E quindi appunto abbiamo questi modelli di amore in cui appunto l'altro giorno sentivamo a un bar un pezzo di una canzone: l'amore non ha torto e non ha ragione, cioè che a parte che forse in italiano non ha molto senso, ma questo in realtà fomenta e appunto insegna in qualche modo a il ragazzino che si ascolta queste canzoni a ripetizioni, perché insomma basta stare dentro un bar o uno stabilimento al mare e te la senti 400 volte al giorno, proprio un approccio all'amore, a questo immaginario che deve essere sconfinato, cioè nel senso come se fosse una cosa solo impalpabile, indefinibile, così è, sì, chimica, è naturale, è, non si sa bene che cos'è, non è mai sociale, non è mai un fattore, no, che prende, che affonda le radici nel sistema in cui stai, ma è qualcosa che non si può mai capire, non ha torto e non ha ragione. Cioè, non sono due persone che si incontrano, che insieme costruiscono, mettono insieme le loro sinergie, il loro essere, si confrontano, si scontrano, cioè, non è qualcosa che è non è un meccanismo in realtà gestito da chi lo vive, no, è qualcosa che, non so, Cupido dall'alto gestisce, tu non puoi fare assolutamente nulla, cioè può andare solo in un senso. Nella maggior parte dei casi viene narrata come qualcosa in cui tendenzialmente la figura femminile è la vittima sacrificale che deve subire e deve scendere a qualsiasi compromesso perché gli viene insegnato che lui è l'amore della sua vita e che non lo fa apposta a trattarla male o a non filarsela dopo un po', appunto dopo che queste farfalle, il momento di chimica iniziale è completamente esaurito. E lui si ritrova, cioè la figura maschile si deve ritrovare appunto a in qualche modo a rifiutare completamente qualsiasi tipo di sentimento e di messa in gioco, diciamo, che venga di se stesso emozionale, perché deve essere un carnefice. Tra l'altro poi c'è questa ricerca spasmodica sia nei film, nelle canzoni, nelle pubblicità, cioè nel senso in tutto ciò che riguarda, diciamo, l'immaginario un po' più comune, che è appunto l'emozione perfetta. Cioè è quello che bisogna cercare, l'emozione perfetta. E quindi trovi anche articoli di giornale che ti dicono tanto, recentemente, adesso non ricordo dove, però il titolo più o meno sosteneva che noi non sposeremo mai la persona perfetta. Grazie al cavolo. Tra l'altro poi, sempre quella da quell'articolo di Herrera Corral Herrera Gomez, a un certo punto questa compagna dice giustamente che poi dentro alle relazioni impostate in questo modo, cioè dentro a questo amore romantico che chiede e pretende dalla donna la totale sottomissione, il totale abbandono, ovviamente poi anche la donna, anche noi ci ritroviamo a pretendere la stessa cosa dal nostro partner, per cui anche noi chiediamo all'uomo di abbandonare il suo mondo e ci ritroviamo dentro a questa spirale, a questa relazione morbosa fatta di possesso reciproco, gelosia, paranoia, morbosità, perché se io devo rinunciare al mio mondo allora devi farlo anche tu, quindi veramente ci perdiamo tutti a stare appresso a queste relazioni, no? E su questo in realtà mi era venuto in mente anche, insomma, che potete trovarlo sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org, anche un altro libro che abbiamo citato, insomma, di cui trovate tranquillamente il link, di Anna Elena Pena, che tradotto in italiano è Scopiamo fino a innamorarci, che parlava proprio appunto di questa decostruzione in realtà di quello che è appunto l'immagine dell'amore in questo senso, no? Di ossessione, di possessione, di completo abbandono verso l'altro e di perfezione verso invece una forma d'amore davvero propria, libera e sentita così come viene. Special. La parentesi di Elisabetta. Vi leggiamo adesso la parentesi di Elisabetta, la leggeremo noi perché lei non è in studio con noi oggi. Il potere ipnotico del dominio. Il dominio maschile è talmente radicato nell'inconscio degli uomini e delle donne e di tutti che non lo si percepisce più come tale. È tanto in sintonia con le nostre costruite attese che è difficile rimetterlo in discussione. I meccanismi e le istituzioni che compiono l'opera di riproduzione del dominio maschile sono tanti e tante, ma se dobbiamo individuare due ambiti che svolgono una funzione particolarmente importante, dobbiamo parlare della famiglia e della scuola. Nel primo ambito la presenza delle donne è al 50% con quella maschile, nel secondo la quota di presenza femminile è addirittura fortemente maggioritaria. Famiglia e scuola sono i luoghi nei quali l'ordine stabilito, con i suoi rapporti di dominio, con i suoi favoritismi, i suoi privilegi e le sue ingiustizie, si perpetua e dove le condizioni di esistenza più intollerabili appaiono tanto spesso accettabili o persino naturali. È proprio in questi due ambiti dove una lingua, una declinazione, uno stile di vita, un modo di pensare, di parlare, di agire sono un'occasione privilegiata per perpetuare la logica del dominio maschile. Allora è palese che non è la quota di rappresentanza delle donne nelle situazioni di riproduzione dell'eterno maschile che ne mette in discussione i principi fondanti e autoriproduttivi, anzi, in assenza di coscienza di genere, li rafforza. Occorre una strategia che liberi le forze del cambiamento, incentrata su una lotta politica contro tutte le forme di dominio. È questo il passaggio ineludibile. E non è una posizione ideologica, ma viene dalla nostra esperienza femminista, dall'analisi di quanto è successo da quando abbiamo perso di vista la nostra lotta di liberazione e l'abbiamo barattata con l'emancipazione, contribuendo così paradossalmente al rafforzamento di questa società che tutto vuole tranne che la liberazione degli individui e perciò anche delle donne. Le quote privilegiate non sono state create per noi donne. Sono nate negli Stati Uniti per garantire percentuali di accesso ai neri e alle nere nelle istituzioni pubbliche e nell'istruzione. Il presidente degli USA è nero. La percentuale dei neri e delle nere in magistratura e in polizia è uguale, se non superiore, a quella dei bianchi e delle bianche. Ma i neri e le nere, che sono il 12% degli statunitensi, danno il 60%. Danno il 60% alla popolazione carceraria, detengono lo 0,3% della ricchezza del paese, la percentuale di proprietari della propria casa si attesta sullo 0,2%, l'80% è analfabeta in prima battuta o di ritorno, il 90% non ha accesso alla sanità nazionale. Evidentemente la strada, non certo della liberazione, ma nemmeno della loro elevazione sociale ed integrazione, non passa attraverso quella che negli USA si chiama discriminazione positiva. A conferma che le lotte corporative e i progetti interclassisti, al di là di qualche immediato successo, sono caduchi e rafforzano l'impianto del modello socio-economico nel suo complesso, che è fondato sulle discriminazioni di classe, di genere e di razza, ed è colmo di ingiustizie sociali. Dobbiamo fondare le nostre lotte su un'analisi delle economie, dei beni e dei simboli materialista e liberatrice, sfuggendo all'alternativa rovinosa tra il niente o il poco in cambio di tanto, leggendo la simmetria tra i sessi come ci ha chiamato la nostra esperienza di femministe, frutto delle condizioni di produzione della società patriarcale. Ottenere nuove leggi non era la preoccupazione principale del Movimento Femminista di Liberazione. Scusate, non leggevo. Il suo scopo era più ambizioso, più utopico. Le leggi sono state il positivo o sottoprodotto di un lavoro gratuito, privo di finalità concrete e immediate, come la ricerca di base. E se un sottoprodotto è nato è anche perché non era lo scopo ultimo, o piuttosto perché si mirava più in alto. Questa ambizione irrealistica che si permetteva di mettere fra parentesi la realizzazione immediata ha prodotto un tale slancio che alcune cose sono state poi ottenute in concreto. Christine Delphi. Non è trasfigurando le istituzioni che migliora la nostra condizione di genere oppresso, ma attraverso la capacità di abbattere le costruite differenze tra il maschile e il femminile, smascherando la pretesa di trasformare la storia in natura e l'arbitrio culturale e politico in naturale. Bisogna attuare una rivoluzione tesa a trasformare lo stato attuale dei rapporti di forza materiale e simbolica tra i sessi. La visione e le proposte interclassiste ci allontanano dal nostro obiettivo, che è la liberazione, e ci fanno impegnare contro i nostri stessi interessi. Non ci dobbiamo limitare a rovesciare il rapporto tra la causa e gli effetti, ma a tagliarne il tiro. torniamo in voce e in diretta e apriamo la seconda parte della trasmissione, che dopo la carrellata sull'immaginario dell'amore romantico che abbiamo fatto nella prima mezz'ora, vuole adesso concentrarsi invece su l'amore come fattore socio-economico, cioè dare all'amore queste ragioni e questi torti che vorrebbero non farci ricercare, e quindi metterlo direttamente in connessione con la struttura sociale ed economica da cui l'amore deriva. E ci faremo aiutare in questo viaggio da uno scritto di Alexandra Kollontai che si chiama Largo all'Eros alato, e che la compagna scrive proprio perché è tempo di disfarsi dell'ipocrisia del pensiero borghese, è tempo di confessare con franchezza che l'amore è non soltanto un fattore imperioso della natura, una forza biologica, ma è anche un fattore culturale. E allora vediamo che quest'amore cambia nel corso del tempo, no? Quindi ogni epoca ha il suo ideale d'amore. E come dice la Kollontai, lei diciamo prende tre fasi: la fase antica, quindi in una società a struttura tribale, poi passa ad analizzare il momento feudale, il cosiddetto amore cavalleresco, e poi passa chiaramente alla società borghese, cioè all'amore che la classe borghese con la sua rivoluzione ha imposto, cioè la morale che la borghesia ha immaginato per chiaramente in funzione dei rapporti socio-economici che andava costruendo. Allora vediamo che all'inizio, cioè nelle società fondate in maniera tribale, in realtà l'amore della coppia tra un uomo e la donna non era così centrale, non era neanche tanto cantato e narrato nell'epica o nella poesia, ma al posto di questo c'era invece il legame di amicizia. Era l'amicizia il fondamento della società, diciamo a livello sentimentale, no? Ed era proprio una vera e propria virtù del cittadino, cioè era quel legame che era la fedeltà dell'amico sino alla morte, no? E che appunto era nel novero di queste virtù civiche, mentre invece nella società borghese l'amicizia retrocederà fortemente, per cui adesso è vissuta quasi come una forma di debolezza, no? L'amicizia, soprattutto poi se è tra un uomo e un altro uomo, non si può mai esprimere del tutto, e al posto appunto dell'amicizia come virtù e come valore sociale verrà imposto quello dell'amore tra due persone, l'isolamento della coppia che si ama rispetto alla società. Poi invece nel feudalesimo, chiaramente cambiando il sistema, la strutturazione sociale, cambiando anche la produzione economica, l'amore diventa invece l'amore cavalleresco. E questo amore cavalleresco viene immaginato, viene tirato su proprio perché in tempi come quelli feudali, attraversati da grandissime guerre, in realtà a fare veramente la differenza in battaglia tra la vittoria e la sconfitta non era tanto l'organizzazione dell'esercito, l'organizzazione dei mezzi, la potenza tecnologica, lo sviluppo tecnologico come può essere invece adesso, ma era proprio invece le virtù del singolo combattente e quindi del singolo cavaliere. E allora questo quale, diciamo, leva più potente per stimolare l'eroismo del singolo cavaliere, quale quello di un amore non corrisposto? È così allora che si afferma questo amore cavalleresco, che era proprio un amore platonico, per cui ogni cavaliere sceglieva una dama del cuore, e tanto più era inaccessibile, tanto più quella passione repressa, non corrisposta e mai vissuta lo spingeva a fare eroismi in battaglia, e quindi c'era anche una totale scissione tra la sfera sessuale e la sfera emotiva, per cui c'era un amore senza corpo, che era quello platonico del cavaliere verso la dama, e che appunto era funzionale a delle esigenze, diciamo, socio-economiche, come quelle appunto della guerra. E poi invece c'era l'unione matrimoniale, che era semplicemente un fatto di interesse, cioè un'unione tra famiglie per, diciamo, questioni di equilibri, potremmo dire, geopolitici, non so. E una scissione anche rispetto alla sessualità, che appunto dentro il matrimonio era un mero atto teso alla riproduzione, cioè alla produzione di un erede, mentre invece questi cavalieri, che così tanto si infiammavano per queste dame inaccessibili, da qualche parte tutte queste passioni carnali le sfogavano, e le sfogavano con degli atti assolutamente brutalizzati, con dei veri e propri stupri, per cui lo stesso cavaliere che trattava la sua dama del cuore come la sua Beatrice, mi viene in mente, era lo stesso che poi non si faceva problemi a stuprare una giovane in qualche villaggio, oppure a farsi portare nel castello le giovani più attraenti soltanto per il proprio piacere. E quindi in questo feudalesimo amore, sesso e matrimonio erano completamente scissi. E poi invece ci ha pensato la rivoluzione borghese a riportarli insieme, no? E infatti in questa nuova morale borghese la borghesia rigetta completamente l'ideale dell'amore platonico e, diciamo, rivendica anche i diritti del proprio corpo, le proprie passioni carnali, no? Però che cosa fa? Li lega subito al, appunto, a questo ideale dell'amore romantico, e quindi anche al matrimonio. Quindi si ricongiunge tutto quanto, il sesso è bello se c'è amore, l'amore è bello perché è romantico, il matrimonio è fondato sull'amore. Chiaramente poi, senza contare gli adulteri, cioè tutta quella serie di sotterfugi, no, poi che la borghesia ha sempre messo in atto per diciamo eccedere da quei confini che però appunto erano funzionali alla struttura socio-economica che la borghesia stava affermando, cioè alla sua lotta di classe. E infatti è proprio con la rivoluzione borghese che, come diceva anche nella parentesi Elisabetta, nasce la famiglia nucleare, come diciamo, di cui ancora dobbiamo occuparci, cioè quella famiglia come prima forma di aggregazione sociale e soprattutto come primo luogo di accumulazione capitalistica. Quindi nel momento in cui anche, per esempio, la famiglia non è più o non è per tutte le classi, forse più correttamente, il luogo di lavoro, cioè in cui si deve dividere il lavoro produttivo, ma è il centro di consumo, di accumulazione e di, quindi, anche passaggio di ricchezza, allora una famiglia sarà tanto più solida e tanto più contribuirà alla sua affermazione borghese, cioè tanto più, diciamo, continuerà a stare ai livelli elevati, no? A stare su nella gerarchia sociale, tanto più sarà coesa al suo interno, cioè i membri coopereranno tutti nella stessa direzione. Allora là, appunto, il matrimonio deve essere fondato sull'amore, i genitori si devono voler bene e devono voler bene anche ai loro figli. E quindi in questo senso diciamo, la famiglia si fa custode di questo capitale accumulato, si fa centro di accumulazione, e avviene anche quindi questo isolamento della coppia amorosa, di questa relazione a due, nei confronti di tutto il resto della società. Cioè in una società che invece è improntata a sentimenti di individualismo, competizione e concorrenza, che sono valori fondanti per la società borghese, la famiglia e soprattutto il legame amoroso e sentimentale è come se si appartasse, e nasce proprio questa contrapposizione tra il privato e il sociale, tra il privato e il politico, tra il sociale e il politico, per cui l'amore deve essere, la relazione amorosa deve essere proprio protetta dal resto della società, che chiaramente infatti è informata a tutti altri principi. My back is strong. Saint Sarah. My name is Aunt. E ci ha chiamato adesso una compagna in diretta che vorrebbe dare un contributo, quindi se siamo riusciti a prendere la telefonata, adesso dovrebbe sentirci. Pronto? Io non vi sento. Eccoci, noi ti sentiamo adesso. Ah, ok. Perfetto. Ciao a tutte. Ciao. No, innanzitutto volevo farvi un saluto a voi e a tutte le ascoltatrici. E niente, perché mi è piaciuta molto la trasmissione, insomma mi sta piacendo, e il mio è un piccolo contributo a questa riflessione su cos'è l'amore romantico, perché proprio in questi giorni mi è capitato di leggere gli scritti rivoluzionari di Richard Wagner. Wagner, che è proprio un mostro, no, del movimento romantico del metà 800, che si prende sempre come esempio di quella opera d'arte totale che è il romanticismo e l'amore mitologico, ideale, bla bla bla, e in realtà il suo discorso dell'amore non ha niente a che vedere con questo di cui stiamo parlando. Io leggo testualmente, dice: solo gli individui forti conoscono l'amore. L'amore tra i deboli non è che espressione di un desiderio. L'amore tra il debole e il forte è timore e compassione. Soltanto l'amore tra gli individui forti è vero amore, perché libero. Io qui vorrei leggere la parola forti come individui autodeterminati, autocoscienti, autonomi, indipendenti. Quindi in realtà in delle fonti proprio dell'Ottocento, tra i pensatori, musicisti e artisti di quell'epoca, troviamo anche degli argomenti che vanno contro questa lettura del Novecento che fa del romanticismo in se stesso, no? Cioè, in realtà sta dicendo: solo tra gli individui forti, cioè autocoscienti, autonomi, indipendenti, ci può essere il vero amore, no? Quindi per capire come il discorso egemonico della nostra cultura occidentale manintende e trasforma spesso le fonti originali di un movimento culturale così grandioso come il romanticismo in mero kitsch, in white trash, come si direbbe anche adesso, no? Quindi io anche invito a tornare a delle fonti del romanticismo, non solo tenerci e mantenerci sulle letture posteriori, ma anche a fare una rilettura alle origini di un movimento così grosso che fu il romanticismo. Tutto qui. Senti, ma questo è molto interessante, ma mi sta venendo in mente adesso, semplicemente non è che abbia avuto molto tempo per pensarci, però questa parola forti possiamo intenderla noi appunto come persone autodeterminati, consapevoli, coscienti, però può essere anche letta forse in una società come questa invece come: esiste l'amore soltanto tra quei soggetti forti nel senso di affermati, integrati, che riescono nella vita, no? Sì. Quindi esiste, cioè l'amore tra due persone realizzate può esistere, però ad esempio se nella coppia uno è meno realizzato dell'altro, allora insomma, cioè può essere letto come autocoscienza, esatto, e sì, chiaramente questa è la lettura che è più condivisibile, no? Però forse dentro la società capitalistica può essere anche interpretata in un altro modo, perché effettivamente ci vengono continuamente propinate le coppie di successo, no? Sì. Sì, quello dipende ovviamente dall'interpretazione delle letture che gli vogliamo dire, però ecco, no, solo che mi era capitato proprio di leggerlo ieri, l'altro ieri, quindi mi faceva piacere condividerlo con voi. Grazie. Niente, grazie. Un bacio a tutte. Ciao, buona serata. Ciao. Volevo leggere ancora una piccolissima citazione invece di Silvia Federici in un suo articolo Contropiano delle cucine, proprio sul concetto che secondo me è abbastanza centrale anche per decostruire questo ideale dell'amore romantico, appunto, o dell'amore borghese, insomma quello infilato dentro a questa società che, diciamo, riproduce queste, cioè la divisione su base sessuata del lavoro, la divisione tra uomini e donne anche, diciamo, nella relazione amorosa, eccetera, e che è il punto dell'isolamento della coppia rispetto alla vita, no? E infatti la Federici dice: l'essenza stessa dell'ideologia capitalista a glorificare la famiglia come un mondo privato, l'ultima frontiera dove uomini e donne riescono a far sopravvivere le loro anime. E non c'è da meravigliarsi se questa ideologia stia godendo di una rinnovata popolarità presso chi pianifica lo sviluppo capitalistico in questo periodo di crisi, austerità e difficoltà. Lei chiaramente scrive negli anni 70, ma non potrebbe essere più attuale, perché anche in questo momento è in atto una ristrutturazione che loro chiamano crisi, chiaramente, che sposta quindi il conflitto di classe dall'alto verso il basso, cioè lo intensifica e quindi sposta sempre di più l'asticella, e dice: questa ideologia che oppone la famiglia o la comunità alla fabbrica, il personale al sociale, il privato al pubblico, il lavoro riproduttivo al lavoro improduttivo, è funzionale al nostro asservimento nella casa che, in assenza di un salario, è sempre apparso come un atto d'amore. È un'ideologia profondamente radicata nella divisione capitalistica del lavoro, che trova nell'organizzazione della famiglia nucleare una delle sue più chiare espressioni. E quindi effettivamente adesso, che sia la donna a stare in casa, che sia l'uomo a stare in casa, comunque effettivamente anche io trovo che in un momento in cui appunto i rapporti di classe, i rapporti di produzione si stanno ristrutturando oggi anche su scala globale, quindi le condizioni materiali stanno peggiorando, tutto, no, viene tolto, non si capisce perché allora non si dovrebbero anche riaffermare i ruoli sessuati, non si dovrebbe riaffermare l'oppressione delle donne, che per un brevissimo momento nella storia ha cercato di essere rotta da un movimento femminista, insomma, rivoluzionario. Appunto, in questo momento di crisi non si capisce perché retrocediamo su tutti i fronti, e non dovremmo retrocedere anche dal punto di vista delle relazioni di genere e quindi anche nei nostri ideali amorosi. E in questo, in realtà, poi la Collenta in qualche modo, no, conclude un pochino, diciamo, con una proposta, insomma, in maniera positiva, nel senso, lei vede all'interno invece della comunità dei compagni e delle compagne, no, la soluzione di quello che è appunto l'immaginario dell'amore e del fatto che l'amore sia qualcosa appunto che riguarda la sfera psicosociale ed economica, e appunto lei parla di un principio di solidarietà, definisce appunto l'emozione, il sentimento come appunto qualcosa che può diventare un elemento di coesione e un elemento organizzatore soprattutto, e quindi appunto, cioè, tutto quello che è l'excursus, diciamo, storico che fa su quello che è l'amore, come è stato costruito nel nostro immaginario, però attraverso in realtà strumenti molto materiali quali l'economia, no? E anche appunto i rapporti geopolitici, i rapporti di potere, e si è evoluto nell'evoluzione di questi rapporti, nel parlare di rivoluzione, nel parlare appunto di costruzione di un altro mondo, di un altro modo di pensare, no? Di pensare anche l'amore e quindi i sentimenti. E allora chiudiamo con lei, direi, prima di salutarvi, che appunto conclude proprio dicendo: se nei rapporti d'amore la passione cieca, assorbente, esigente perde vigore, se il sentimento di proprietà ed il desiderio egoista di vincolare a sé per sempre l'essere amato deperiscono, se la prepotenza maschile e la mostruosa rinuncia della donna al proprio io scompaiono, si assisterà allo sviluppo di altri preziosi aspetti dell'amore: il rafforzamento del rispetto della personalità dell'altro, l'attitudine a prendere in considerazione i suoi diritti, lo sviluppo della comprensione reciproca, la crescita dell'aspirazione ad esprimere l'amore non solo con i baci e le carezze, ma anche con l'azione congiunta, con l'unità delle volontà e con la comune opera creativa. appunto in chiusura volevo anche, diciamo, essere propositiva rispetto a quello che è poi l'analisi femminista, ricordando che appunto il compagno Igor Lin contro la Collant scrisse appunto un diciamo un appendice, una lettera, un articolo credo, in cui fondamentalmente sosteneva che tutta l'analisi della Collant in qualche modo era anche corretta, insomma non era particolarmente fatta male, ma che fondamentalmente parlare di Eros, parlare di amore, parlare appunto di rapporti, di relazioni, di emozioni era completamente fuorviante, perché assolutamente alla gioventù rivoluzionaria non importava in nessun modo la questione dell'eros, e che i rapporti erano molto più semplici da proletari rispetto a quello che Ray invece continuava ha tentato appunto di scrivere, di descrivere all'interno di Largo all'Eros Salato. E questo è un po' un augurio e anche un po' un proposito che do a tutti le nostre ascoltatrici e ascoltatori, che cari compagni e compagne, per nei secoli abbiamo sbagliato sempre, diciamo, a non considerare l'analisi femminista all'interno delle nostre analisi, tenendola, diciamo, in maniera secondaria e all'atere, e forse invece dovremmo considerare e ripartire dal fatto che invece la decostruzione dell'amore, la decostruzione di quello che è il ruolo sessuato, la decostruzione del lavoro di riproduzione sono necessari e primari all'interno della nostra analisi politica, e senza di queste la rivoluzione non sboccerà mai. Nel salutarvi allora ci sentiremo il prossimo mercoledì, per contattarci o per leggere i nostri contributi e le nostre attività potete sempre andare sul nostro blog, che è coordinamenta.noblogs.org, oppure scriverci all'email coordinamenta@autistiche.org. E invece per quanto riguarda la radio, che non campa d'aria, per sottoscrivere a Radio Onda Rossa, conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185, Roma. E poi sul sito di radioondarossa.info trovate invece tutte le altre modalità del crowdfunding per appunto sostenere la radio. Ciao. Ciao a tutte e a tutti. Like that! Rientro un attimo in voce perché nei primi 10 minuti avevamo dedicato questa puntata a una compagna che oggi compie gli anni e le volevamo fare tanti auguri, sappiamo che ci sta ascoltando, e la riprendo adesso perché non mi aveva sentito. Auguri!